il 50. Allora, rieccoci qua, rieccoci qua. Commentavamo Kraut Rock Sampler per i 2 e 4, non c'è tra i 50 di Julian Cope. Non c'è? No, non c'è, però. Vabbè. Però è io mi stavo già perdendo. Ma siamo già oltre i 70 lì, oltre, sì. Sai che lui. sacrale. Questo di quando è questo? 81. Primi anni 80, 81. Era semplicemente, siamo andati un po' avanti perché meritava riprendere questa lunga maratona nel Kraut Rock e Cosmische di questa domenica sera, domenica notte, anzi, ripeto un po' gli ospiti, ormai Gino ci sta per lasciare. Sì, vi saluto adesso, così poi che DJ Tetro rimanga ancora un po'. Perché manca tutta la parte che è il suo ferro di battaglia, cavallo di battaglia, c'è cioè tutta la parte moderna, però insomma, abbiamo troppe cose, chiaramente dovremmo replicare, avremo materiale per 10 volume 1, volume 2, insomma. perché no, in effetti potremmo fare con tutta la parte moderna, assolutamente, perché no? Credo che sia più semplice. E comunque niente, adesso questo è ancora Manuel Goetsching, che mi dicevi che è tornato in scena dopo anni di silenzio. Ha suonato a Berlino l'anno scorso praticamente, e poi anni fa però era stato anche a Tokyo, è molto cercato, riverito, diciamo che si sposta poco, probabilmente è un po' un indolente. Però è tornato e ho letto alcune recensioni dei live, ne parlano anche in maniera piuttosto lusinghiera, insomma, magari non sarà all'altezza dei giorni migliori, però comunque siamo sempre a livelli molto dignitosi, insomma. Sì, questa è la parte proprio più metronomica, quella che è stata assolutamente più citata. Adesso verranno tutta una serie di artisti che sono poi quelli da cui sono partiti tutti i contemporanei. I Tangerine Dream, Konrad Schnitzler e tutti i vari cluster, Red Helios, Möbius, eccetera. Kraftwerk, che ovviamente. Che tra l'altro questa sera, come dire, vengono prese sempre un po' all'arte. Sì, no? Ma no. E poi in realtà, insomma, qua vorrei fare un discorso, però vabbè, non come dire, lo accenno e basta. Per chi è nato appunto negli anni in cui uscivano dischi meravigliosi come quelli che stiamo mettendo, i Kraftwerk sono stati, come dire, veramente la porta d'accesso per tutta la musica cosmica. Io penso anche Eliseo, senza i Kraftwerk non saremmo mai arrivati probabilmente a ascoltare Tangerine Dream. Beh, e Company. Soprattutto, secondo me c'è un problema con i Kraftwerk, cioè che si tende sempre a celebrare, giustamente anche perché è innegabile insomma che album come Autobahn siano seminali o anche Trans Europe Express, però si tende un po' a dimenticare gli albori, che erano industrial durissimi, un'elettronica veramente magmatica, sì, completamente diversi proprio. Ed erano belli. Ralph and Flory è un gran disco, sì, che andrebbe assolutamente rivalutato, e anche i primi due sono due, secondo me. Adesso c'è tutta una scena che secondo me invece li sta lentamente riscoprendo. Addirittura anche Organization per elettroacustica. Esatto. E invece fino a un po' di tempo fa sembrava che i Kraftwerk fossero esistiti da Autobahn in poi, no? Infatti, sì. È per quello che io li vivo un po' come troppo commerciali, non so perché, insomma. Beh, fossero tutti così i pezzi commerciali, mi darei alla musica commerciale, fossero tutti come Trans Europe Express. Ammetto. Beh, io insomma al Sonar mi capitò di vederli dal vivo e fu un'esperienza. Anche noi a Ferrara, incredibile. O Antistadio 81. Antistadio 81 è mitico anche per il vento che ormai tira sul palco. Con un freddo boia, insomma, comunque erano veramente. Che anno era? 81. Ma non sono anche al Tivoli Kraft, ecco, vedi, infatti all'inizio anni 90. No, ma loro questo rigore, questo aplomb che mantengono sempre li rende in qualche modo invidiabili, non c'è dubbio. E poi è vero che è anche un po' stupido secondo me scindere i due mondi, perché Computer Love è una bellissima canzone elettronica, come Kling Klang è un bellissimo pezzo di Avant elettronica, insomma, senza dubbio. Bene, allora adesso li tiriamo fuori dal cappello. We'll be right back. Allora, alla fine abbiamo ascoltato un brano dei Kraftwerk che a questo punto ci stava e... Una meraviglia. Non me lo ricordavo, accidenti a me, io mi ricordavo Autobahn, mi ero dimenticato completamente di Ralph e Florian che viene prima. Prima, disco prima. 73? 73, terzo disco. Sì, sì. E sì, veramente i Kraftwerk erano qualcosa. E sono qualcosa. Lo sono. Poi è chiaro che si sono modernizzati sui loro suoni. Il loro live comunque rimane straordinario. Anche adesso? Anche adesso. Anche se dei Ralph e Florian non c'è rimasto nessuno. O qualcuno c'è rimasto. Io da qualche parte ho letto che proprio Ralph Hutter, no? Sì. Sta preparando qualcosa o sta lavorando a un progetto, però non so se come Kraftwerk o proprio come a proprio nome. Non mi ricordo più dove l'ho letto, ma è una cosa proprio recente. Sì, forse perché, su Wire è possibile. Perché il nome credo che sia finito poi agli ultimi componenti del gruppo mitico, insomma. Ci sono lentamente. Ce n'è rimasto uno, no? Uno. Credo che di originali fosse rimasto uno. Ma Florian, sarà forse. Florian. Ma è una formazione ormai di cui non si conosce neanche la faccia. Sì, sì. Che usano. C'hanno le maschere. Le maschere, quindi. Si conoscono però le protesi meccaniche. Con le quali finiscono. Vabbè, allora salutiamo Gino. Grazie per. Sì, grazie a tutti voi. E magari ci si rivede. Dovremmo fare una seconda puntata. L'abbiamo già detto perché non ci stiamo. Adesso vediamo se riusciamo a farla entro giugno, entro inizio giugno, se no ci rivedremo in autunno e poi comunque grazie di tutto. Va bene, grazie. No, e comunque poi diciamo che insomma... Non c'è altro da aggiungere. No, di seguirti comunque per altre vie, quelle giornalistiche. Oh, mamma mia. Insomma, una delle firme autorevoli italiane. No, poi hai avuto anche un SMS che ti ha detto che devi tornare, insomma. Sì. Non so, mi tentano. Speriamo. Vediamo. Va bene, grazie. Grazie buonanotte. A tutti voi. Buonanotte. Ciao. Ciao. E noi invece continuiamo con questo, abbiamo messo i Tangerine Dream perché ci stavano in realtà, con il metronomo di prima veniva meglio con la Schnitzler. Allora, Schnitzler era nei Tangerine Dream e ha suonato con Mebius, Planck, Red Helius eccetera, tutti quelli che vengono dopo, per cui è un trade union, e ha suonato anche nei Tangerine Dream, per cui ascoltiamo un attimo questo metronomicissimo Zug. Treno, dove è un treno più elettronico di così si muore e sembra di sentire forse i Kraftwerk anche qua in qualche modo. Anticipa. dopo Konrad Schnitzler siamo passati all'ascolto di una cosa abbastanza recente, tra virgolette, perché fino agli 70, se non sbaglio. 1980. Esatto. Di Harald Grosswolf, che era un batterista, giusto? Era un batterista con Ashra Temple, Klaus Schulze, comunque ha lavorato soprattutto con loro e poi ha fatto questo disco Synthesis. Sì, il primo disco che forse prima è unico poi. Credo unico. Tra l'altro un disco di minimal synthwave. Sì, infatti suona molto attuale per il recupero della synthwave che si sta facendo in questo periodo. Tutta la parte di recupero proprio di questi gruppi. Che non a caso è stato ripreso proprio da anche questo come remix, con Resynthesist, esatto. Anche questo da tutta una serie di vari artisti odierni che hanno ripreso questi brani, che gli veniva proprio bene a remixarli in vario modo, proprio partendo da queste cose. Però ascoltando questo mi è venuto in mente anche Michael Hennig, che era nato come un chitarrista anche lui negli Agitation Free, uno dei cosiddetti gruppi minori un po' meno noti, e che però ha fatto questo disco assolutamente spaziale, cosmico, con questi sequenzeroni molto ripetitivo ma anche molto affascinante. Per qualcuno uno dei dischi fondamentali della musica elettronica anche. Non lo citiamo tanto qua, sì. Questa sera siamo insomma, nessuno si spaventa di citare Scaruffi, no? infatti. Tanto scrive di tutto, su tutto, di tutto, di più. E per cui ascoltiamo un piccolo estratto, anche qua solito discorso, brani molto lunghi, per cui ascoltiamo un estratto, Hanging Garden, da questo Departures from Northern Wasteland. Thank you. Bene, allora siamo passati da Michael Hennig ai mitici, per me, Cluster, o Cluster, che dir si voglia, che sono stati un po' il mito di quegli anni 70, nel senso che io mi precipitavo a prendere qualunque cosa essi facessero, che fossero Möbius, Redelius, Möbius e Planck, Möbius con Rother o con gli Armonia, insomma, erano una grande famiglia allargata, chiamiamola così, che sotto diversi nomi ha fatto produrre tra metà anni 70 e fine anni 70, inizio anni 80, una serie di robe veramente incredibili per quanto mi riguarda, e veramente sono veramente particolari, anche perché in questo caso i Cluster erano solo Möbius e Redelius, giusto? Sì, solo Möbius e Redelius, in questo caso sì. Poi c'erano i Cluster con la K che erano prima precedenti, elettroacustici addirittura, molto più sperimentali, infatti, ma come un po' hanno fatto i Kraftwerk, che hanno iniziato molto sperimentali, poi si sono un po' addolciti, però facendo questi ritmi che sanno, forse sono stati un po' meno imitati i Cluster rispetto agli altri, forse anche meno noti. Posso dire una cosa un po' cattiva a questo giro? La Sky, poi etichetta insomma di riferimento fino agli anni 70 per la musica cosmica, so di dire insomma una cosa infelice, però molta New Age purtroppo si è rifatta, insomma. Sì, assolutamente. Perché insomma sono stati purtroppo anche molto citati anche da musicacce degli anni 80. C'è stata la prima deriva verso quelle anche compilation terrificanti che poi hanno generato giornali e varie faccende. E però i Cluster erano un piccolo gioiello anche all'interno della Sky, se vogliamo. E i dischi di Redelius, che poi dopo alla fine ne ha fatti una caterva da solo, forse i primissimi erano ancora un po' interessanti, dopo che lui si è un po' perso. Sono belli i tre volumi, no? Sì. Quasi impressionisti, quasi molto più naif, se vogliamo, l'elettronica molto più cercare più semplice. Debussy, sì, esatto, meno ricercata. E vabbè, niente, comunque il discorso era che noi dai Cluster invece volevamo fare un inserto particolare. Lo facciamo in diretta, infatti. Lo facciamo in diretta andando in un periodo berlinese di un signore che si chiama David Bowie. Eh sì, è proprio lui. Qualcuno forse se lo ricorda, chissà. Beh, Bowie faceva anche questo. Diciamo che qua ha fatto forse il suo meglio. Sì, vabbè, la trilogia berlinese. Poi soprattutto sto pezzo. 1977. Piena era punk. Appunto. Beh, non sembra quasi David Bowie. Perché c'era la mano di una tangente incredibile verso il cosmo inglese. Sì, Brianino qua ci ha messo lo zampino. Infatti, e ovviamente l'aggancio viene perché i cluster di cui si parlava prima hanno fatto ben tre dischi con Brian Eno, sempre a cavallo tra fine anni 70 e inizio anni 80, come per esempio questo After the Hit, dove Brian Eno addirittura canta come nei suoi dischi mitici, quelli di quel periodo lì, che non ha più fatto, ahimè, dopo ha fatto altre cose. No, tornò qualche anno fa con un cantato, anche un disco minore, ma bello. Però secondo me si è un po' perso, non so, anche lui. Insomma, sono tutti persi. Vanno ritrovati un po', non lo so. Comunque, ascoltiamo questo The Bell Dog da After the Hit. Dark stars. Bene, siamo sempre in questa maratona Kraut Rock qui da Radio Città del Capo. Salutiamo un altro ospite, salutiamo DJ Tetro che anche lui sta cedendo all'ora. Un po' non so, pian pianino tutti quanti. E rimase solo uno, non so chi, adesso vediamo. Sicuramente tu, Jerry. Andiamo per esclusione, vediamo. Comunque grazie anche a te. Beh, per la partecipazione. E al prossimo giro per la parte... La parte moderna che noi volevamo infilare qui, ma proprio non ci stava, per cui... A questo punto faremo i minori e la parte moderna. Esatto, promessa assoluta. Grazie di tutto e buonanotte anche a te. Ciao. Grazie, ciao. E io invece vi facciamo ascoltare a questo punto gli Armonia, perché è il cosiddetto supergruppo del periodo 1973, dove c'erano appunto i due cluster, Mavis Redelius con il chitarrista dei Noi, Michael Rother, con questo brano Vatussi, di quelli proprio belli contorti, molto ritmici, metronomici, il vero kraut. Adesso riprendiamo un po' anche il discorso dei Noi a questo punto. brano di un'obliquità assurda, veramente, questo degli Armonia, Music from Armonia 1973, Vatussi, come si diceva, i Cluster con Michael Rother dei Noi. Abbiamo aperto tutta questa lunga cavalcata circa 3 ore fa con i Noi, con Allo Gallo, perché il krautrock viene in qualche modo identificato molto anche con loro, e allora a questo punto ci starebbe bene ritornare un attimo per riprendere quest'ultima parte di trasmissione dedicata al krautrock, con tutta questa parte, questi affiliati, questi sottogruppi dei Noi, dei Kraftwerk, degli Armonia, insomma tutte queste grandi collaborazioni tra vari artisti che poi alla fine si conoscevano e si frequentavano per tutto questo periodo degli anni 70. Sì, andiamo a prenderci quindi un grande classico dei Noi, dal terzo disco nero. Beh, uno dei pezzi, potrei anche usare così proprio da veramente da isola deserta, da abbandono, sì. Perché è veramente un gioiello veramente cosmico. Molto metronomico anche questo, ovviamente. Thank you. Allora, i Noi 75 era l'ultimo disco dei Noi e Klaus Dinger ha continuato dopo, anzi più o meno nello stesso periodo, perché le registrazioni sono più o meno di quel periodo, il disco è uscito nel 78, si è unito a Connie Plank, che era un altro produttore e musicista del periodo che collaborava con Mebius, e ha fatto questo progetto un po' curioso, L.A. Düsseldorf, che Los Angeles. Sì, appunto, non si capiva bene questa citazione qua, anche perché qua di Los Angeles ci vedo veramente poco. Forse le palme, quelle però cosmiche, inventate. E la batteria chiaramente è la stessa, perché Dinger è sempre lui, il movimento è forse un po' più frenetico, sono un po' più solari, meno cosmici, forse meno oscuri, forse un po' troppo salari, è stato un progetto un po' strano questo qua, sicuramente minore. Molto, molto citati, soprattutto dai gruppi Wave, Lea Dusseldorf, quindi forse anche per quello è rimasta la memoria. Magari, forse in questo caso sono un po' più belli forse i dischi di Rotter da soli, i primi due perlomeno. Sì, che infatti a questo punto ascolteremo dopo, perché sono qualcosa di completamente diverso da quello che faceva Dinger qua, perché lì il ritmo non c'è più. E appunto sarà nell'ultimissima parte di questa lunga cavalcata dove andremo veramente nel cosmo. Comunque ascoltiamo un altro po' di questi L.A. Düsseldorf. Ah, il brano si chiama Düsseldorf, appunto. Thank you. bene, lasciamo un po' questi ritmi frenetici di questa parte del kraut. Ormai siamo nell'ultima parte di questa lunghissima trasmissione. Andiamo nel cosmo, come a questo punto, a quest'ora facciamo un viaggio astrale. Cosmo profondo proprio, Sì. Per favorire un po' anche il sonno, dopo troppi ritmi non va bene andare a letto dopo tutti questi ritmi troppo frenetici. Rischiamo insomma di svegliarci. Svegliarci subito, prima di andare a lavoro o al non lavoro. Sì, appunto. Insomma. E niente, adesso questo qui in sottofondo è semplicemente un intermezzo di Cosmic Jokers, che doveva anche essere questo una specie di supergruppo con Harald Groskopf, e Jürgen Dolase, Klaus Schulz, però insomma alla fine è una roba un po' minore. Serve... Sì, anche se insomma i dischi poi sono molto di culto, ecco, di Cosmic Joker. Sì, io purtroppo ho recuperato solo questo, gli altri non me li ricordo neanche. Però è per introdurre un po' i quelli che non abbiamo ancora citato, che a me non sono mai piaciuti se non di sfuggita, i Tangerine Dream, per cui ne parlate voi. No, beh, Zeit è uno dei capisaldi della musica cosmica, tra l'altro momento anche particolare, se non sbaglio è del 72 anche Zeit, tra l'altro, quindi momento magico e super cosmico, e il disco più cupo dei Tangerine Dream, il disco più cosmicheggiante, che vede anche la partecipazione, forse l'ultima elettronica, di Florian Fricht, che lavora al Moog insieme a Baumann, appunto, dei Tangerine Dream. Quindi uno dei momenti, anzi forse per Tangerine Dream è un momento più alto, che poi prenderanno insomma una piega, ecco, loro sì, sul serio, un po' scottante negli anni Ottanta, quando insomma diventeranno un gruppo hollywoodiano fondamentalmente, li trovate in molte colonne sonore, anche di film insomma notevoli, però insomma erano l'ombra di loro stessi, insomma, e hanno cavalcato un po' anche il fenomeno in maniera così molto discutibile, perlomeno. Invece con Zeit, appunto, era il pieno del periodo cosmico, tra l'altro proprio nei Cosmic Joker Baumann aveva anche una certa forza in termini insomma espressivi e compositivi. Mi piacerebbe sapere che cosa hanno fatto l'altro giorno in quel di Padova, che hanno suonato proprio una settimana fa. Mi sa che forse è meglio io non saperlo. Ho avuto il coraggio di andarci sinceramente. Chissà che roba era. Chissà, ma andiamo a cercare. Andiamo prendere, a ascoltare. Esatto. Intanto saluto, lascio la palla a due sopravvissuti come l'altra volta. È l'ultimo chiude la porta. È l'ultimo chiude la porta. Come la scorsa puntata famosa. Finite voi, però rappresentate le due trasmissioni, dunque sono tranquillo. Quindi sì, ti va senti bene. Un po' rappresentato. Andare, sì, sì, io che punto molto alla rappresentanza. Hai votato. Ho votato, per cui insomma credo nella rappresentanza. Delego. Va bene, allora buonanotte. Ti salutiamo, ti diamo la buonanotte con questa. E a presto, okay. Questo va bene, sì. Boom. Ciao. Thank you. Allora, dopo Tangerine Dream siamo passati a uno dei cosiddetti minori, ma questo disco che non conoscevo personalmente mi sembra veramente splendido. Beh, sono dei tape tra l'altro risuscitati da Schulz, che era amico di Gunther Schicker, è un personaggio sì minore, quindi come dire facciamo anche un po' da ponte per la prossima trasmissione che vi abbiamo insomma promesso, e appunto tante perle, un po' anche Gino all'inizio della trasmissione diceva insomma come vengono riscoperte delle cose sepolte dal tempo, magari personaggi anche appunto che sembravano così destinati al dimenticatoio e poi in realtà escono delle vere e proprie perle. In questo caso insomma un ringraziamento soprattutto a Schulz che ha recuperato questi tape, e quindi abbiamo insomma quasi la felicità, mi viene da dire, di ascoltarli anche per le prime volte, no? Sì, sì, infatti questo è sempre per i fine anni 70, sì. E tra l'altro ci abbiamo ruotato attorno un bel po', a questo punto tocca a Klaus. Sì, sì. L'abbiamo citato in mille salse, e lui ha avuto appunto, come dicevo prima, questa fulgida carriera tra inizio anni 70 e fine anni 70. Dopo secondo me si è perso, lui c'è ancora. Questo giro hai ragione, questo giro è ritornato ogni tanto negli anni 90, prima citavamo un disco con Ari, collaborazione qua e là, però per esempio l'ultima collaborazione che ha fatto con Lisa Gerrard secondo me è piuttosto inutile. Non l'ho sentito, no, direi, no, sinceramente non voglio sentire. Non hai perso niente. Devo dire che hanno unito il peggio di tutti e due, per cui almeno a mio avviso è stato un disco abbastanza inutile alla carriera di tutti e due. Poi, peraltro quella di Schulz credo che sia decisamente in vena declinante già da molti anni. Comunque Time Wind è sicuramente uno dei capisaldi della sua produzione della metà anni 70, questo è proprio del 1975, e ovviamente sono brani di 30 minuti, stesso discorso che facevamo prima, non possiamo che fare un piccolo assaggio in seguito, subito di seguito a questo Gunther Schicker. Thank you. Allora, siamo in chiusura di trasmissione, ce l'abbiamo fatta ad arrivare alle 2:30, non ci credevo neanche io. Sì, proprio ci siamo arrivati sul serio. E con Genuson Uri che in sottofondo è semplicemente un esempio di quello che potrebbe essere la trasmissione degli epigoni di quelli che fanno adesso queste cose, un disco appena uscito della Cranky, da questo americano che fa questa musica spaziale assolutamente allucinata con grandi omaggi al passato. Mancava Michael Rother, abbiamo parlato tanto di lui, sì, dei Noi, eccetera eccetera. Lui, devo dire, non so se più in attività, perché è un bel po' che non se ne sente parlare. Sì, in effetti da parte delle ristampe non ne sappiamo niente. Però questo Flamen der Erzen è il suo primo disco solo, quando il La Düsseldorf e Dinger facevano quelle cose che abbiamo sentito prima, molto ritmiche. Lui si dedicava non proprio allo spaziale, qualcosa di quasi di mezzo, sì, una molto sorta più dolce. Sì, una sorta di viaggio chitarristico. Sì, una sorta di atmosfera non cosmicheggiante, però insomma decisamente eterea. Bene, abbiamo pochi minuti prima della pubblicità delle 2:30, ascoltiamo un pezzo di questo e poi vi salutiamo. Vi salutiamo, sì, e vi rimandiamo alla seconda parte, sì, eh? E alle prossime rispettive trasmissioni. Ciao Ger. Ciao ciao. Ci siamo, eh. Questa volta buonanotte sul serio.